Già di ritorno, dottor Valle? Fermi le 500. Non sia sciocco. Metta giù quella pistola. Fermi le 500. Uccidermi non le servirà a nulla. Conterò fino a tre. Lei? Uno. Sarà il più fedele tra i miei collaboratori. Due. Ho grandi progetti su di lei. Tre. Faccia perdere altro tempo, dottor Valle. Ha paura del tempo? O soltanto dell'alba, come i vampiri. In pieno ventesimo secolo, lei crede ancora ai vampiri? I miti non muoiono, si trasformano. Me l'ha insegnato lei stesso. Avete cambiato faccia, ma continuate a succhiare il sangue alla gente. Ha finito? No. Adesso le dico cosa farò. Mi pianterà un palo di prassi nel cuore. Uscirò di qui. Andrò ai giornali. Dalla polizia. I giornali mi appartengono. La polizia mi appartiene. Allora getterò bombe nelle sue fabbriche. Incendierò i suoi magazzini. Sfascerò le vetrine dei suoi supermarket.